un altro incidente concentrò ancor più le mie preoccupazioni sul versante di Gomorra. Avevo visto sulla spiaggia una bella giovane donna, pallida e slanciata, i cui occhi disponevano attorno al loro centro dei raggi così geometricamente luminosi da far pensare di fronte al suo sguardo a una sorta di costellazione. Consideravo quanto fosse più bella di Albertine e come sarebbe stato saggio rinunciare all'altra. Sul bel viso della giovane donna, semplicemente, era passata la pialla invisibile di una grande bassezza di vita, della continua accettazione di espedienti volgari, così che dai suoi occhi, benché più nobili del resto del viso, non dovevano sprigionarsi che raggi di appetiti e desideri. Ora, il giorno dopo, al casinò, vidi che questa giovane donna, che s'era messa a una certa distanza da noi, non smetteva di posare su Albertine le luci intermittenti e girevoli dei suoi sguardi. Si sarebbe detto che le facesse dei segnali servendosi di un faro. Soffrivo al pensiero che la mia amica potesse accorgersi d'essere l'oggetto di tanta attenzione. Temevo che quegli sguardi instancabilmente accesi avessero il significato convenzionale d'un appuntamento d'amore per l'indomani. Chissà, forse non era il primo quell'appuntamento. Poteva darsi che la giovane donna dagli occhi raggianti fosse venuta a Balbec un altro anno. Era forse perché Albertina aveva già ceduto ai suoi desideri? O quelli di una sua amica che si permetteva di rivolgerle quei lucenti segnali? Ben più che pretendere qualcosa per il presente, essi erano autorizzati a tanto dalle piacevoli ore del passato. L'appuntamento in questo caso non doveva essere il primo, ma il seguito di convegni avvenuti in anni precedenti. E in effetti gli sguardi non dicevano: «Vuoi?» Non appena individuata Albertine, la giovane donna aveva girato decisamente la testa verso di lei, lanciandole luminosi sguardi carichi di memoria, come se temesse e si stupisse che la mia amica potesse non ricordare. Albertine, che la vedeva benissimo, restò flemmaticamente immobile, e così l'altra, con lo stesso genere di discrezione di un uomo che vede la sua ex amante in compagnia di un altro, smise di guardarla e di occuparsi di lei, esattamente come se non fosse esistita. Alcuni giorni dopo, però, ebbi la conferma dei gusti della giovane donna e anche della probabilità che in precedenza avesse già conosciuto Albertine. Spesso, quando nel salone del casinò due fanciulle si desideravano, si produceva una sorta di fenomeno luminoso, una traccia fosforescente che andava dall'una all'altra. Diciamo, fra parentesi, che proprio con l'ausilio di tali materializzazioni, per quanto imponderabili, di siffatti segni astrali che infiammano tutta una parte dell'atmosfera, la dispersa Gomorra tende in ogni città, in ogni villaggio, a ricongiungere le sue separate membra, a rifondare la città biblica, mentre analoghi sforzi vengono compiuti ovunque, in vista magari di una ricostruzione intermittente, dai nostalgici, ipocriti, a volte coraggiosi, esuli di Sodoma. La vidi una volta, la sconosciuta che Albertine aveva mostrato di non riconoscere, proprio nel momento in cui passava la cugina di Bloch. Gli occhi della donna sprizzarono raggi, ma era evidente che non conosceva la giovane israelita. La vedeva per la prima volta, provava un desiderio, qualche minimo dubbio, di sicuro non la stessa certezza che nei confronti di Albertine. Albertine, sulla cui complicità doveva aver fatto un tale assegnamento da restare di fronte alla sua freddezza, non meno sorpresa dello straniero pratico di Parigi, ma residente altrove, il quale, tornatoci per qualche settimana, vede che al posto del piccolo teatro dove trascorreva piacevoli serate, hanno costruito una banca. La cugina di Bloch andò a sedersi a un tavolo e si mise a sfogliare una rivista. Subito la giovane donna venne, con aria distratta, a sedersi accanto a lei, ma ben presto, sotto il tavolo, si sarebbero potuti vedere i loro piedi tormentarsi, poi le loro gambe, le loro mani confondersi. Seguirono le parole, s'avviò una conversazione e l'ingenuo marito della donna, che la cercava dappertutto, si meravigliò di trovarla a far progetti per la serata con una fanciulla che non aveva mai vista prima. La moglie gli presentò la cugina di Bloch come un'amica d'infanzia, pronunciando un nome incomprensibile perché s'era dimenticata di chiederle come si chiamasse. Ma la presenza del marito fece fare ulteriori progressi alla loro intimità. Infatti, si diedero del tu, dato che s'erano conosciuti in collegio, incidente sul quale più tardi fecero grandi risate, come sul marito beffato, con un'allegria che fu occasione di nuove tenerezze. Quanto ad Albertine, non potrei dire che abbia mai assunto al casinò, sulla spiaggia o altrove, maniere troppo libere con una fanciulla. Trovavo anzi nel suo atteggiamento qualcosa di eccessivamente freddo e anodino che sembrava, più che buona educazione, un'astuzia destinata a sviare i sospetti. Aveva, con questa o quella fanciulla, un certo modo rapido, gelido e decente di rispondere a voce molto alta. «Sì, andrò al tennis verso le 5, farò il bagno domattina verso le 8», e di piantare subito in asso la persona cui l'aveva detto. Un modo che dava terribilmente l'impressione d'un imbroglio, come se Albertini intendesse così fissare un appuntamento, piuttosto come se, avendolo fissato sottovoce, dicesse forte quella frase, in effetti insignificante, per non dare nell'occhio. E quando poi la vedevo prendere la bicicletta e partire a tutta velocità, non potevo impedirmi di pensare che andasse a raggiungere colei con la quale aveva appena parlato. Al massimo, quando qualche donna giovane e bella scendeva dall'automobile all'inizio della spiaggia, Albertine non riusciva a non voltarsi e s'affrettava a spiegare: «Guardavo la nuova bandiera che hanno messa davanti ai bagni. Avrebbero potuto sprecarsi un po' di più. L'altra era abbastanza squallida, ma mi sembra francamente che questa sia ancora peggio». Una volta Albertine non s'accontentò della freddezza e la cosa mi rese ancora più infelice. Mi sapeva preoccupato che potesse incontrare un'amica di sua zia, che aveva cattiva reputazione e veniva ogni tanto a passare 2 o 3 giorni in casa di Madame Bonton. Gentilmente Albertine mi aveva detto che non l'avrebbe più salutata. E quando costei veniva a Ancarville, Albertine mi diceva: «A proposito, è qui, e lo sapevate?» come per mostrarmi che non la vedeva di nascosto. Un giorno che me lo diceva, aggiunse: «Sì, l'ho incontrata sulla spiaggia e per dispetto, passando, ho fatto apposta a sfiorarla, l'ho quasi urtata». Sentendo queste parole, mi tornò alla mente una frase di Madame Bonton, cui non avevo più ripensato. Quando in mia presenza aveva detto a Madame Swann, come se si trattasse di una qualità, quanto sua nipote Albertine fosse sfrontata, ricordando come nel parlare con non so più quale moglie di funzionario le avesse rinfacciato che suo padre aveva fatto lo sguattero. Ma le parole di colei che amiamo non si conservano a lungo nella loro purezza, si corrompono, marciscono. 1 o 2 sere dopo ripensai alla frase di Albertine e mi parve che ciò che ne emergeva non fosse più la maleducazione di cui Albertina andava orgogliosa e che poteva solo farmi sorridere, ma qualcosa di ben diverso, e cioè che Albertine, magari senza uno scopo preciso, per eccitare quella signora o ricordarle perfidamente vecchie proposte, forse in altri tempi accettate, l'avesse sfiorata rapidamente e poi, temendo che io fossi venuto a saperlo, dato che era successo in pubblico, avesse voluto prevenire un'interpretazione sfavorevole. Del resto, la mia gelosia per le donne, di cui Albertine era forse invaghita, stava per cessare bruscamente.